i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Mediterraneo. La guerra c'è, ma non si vede. Di Fabrizio Luperto. Giugno 1941. Su un'isola greca, abitata quasi esclusivamente da donne e bambini, dove i pochissimi uomini sono gli anziani scampati alla deportazione dei tedeschi, sbarca un manipolo di soldati italiani, che ha il compito di presidiare l'isola. Ci resteranno 3 anni, dimenticati da tutti. Diretto da Gabriele Salvatores, Mediterraneo è una delle tante versioni aggiornate della gloriosa commedia all'italiana. Qui in formato light che, come tradizione vuole, oscilla tra il drammatico, poco, e il comico tanto, e che gioca con la formula degli italiani brava gente, in cui si condensa un'immagine edulcorata dei soldati italiani. Una immagine che tanto piace agli USA e che probabilmente ha contribuito in maniera determinante all'assegnazione del premio Oscar come miglior film straniero, nonostante tra i candidati all'ambita statuetta ci fosse Lanterne Rosse, capolavoro di Zhang Yimou, 2 volte vincitore del Leone d'Oro a Venezia con La storia di Kijou, 1992, e Non uno di meno, 1999, oltre che regista della maestosa cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino del 2008. Cast che oggi potrebbe sembrare stellare, ma che all'epoca, se si esclude il già noto Diego Abbatantuono, era composto da semi sconosciuti. Infatti Claudio Bisio, Antonio Catania, Gigio Alberti, tutti appartenenti al gruppo del Teatro dell'Elfo, come lo stesso Salvatores, erano alle loro prime esperienze cinematografiche. Mediterraneo è il 3° film della tetralogia della fuga di Salvatores. Marrakesh Express 1989, Tournée 1990, Mediterraneo 1991, Puerto Escondido 1992, il cui filo conduttore è la fuga da una realtà che si fatica a comprendere o non si vuole accettare. Non si viveva poi così bene in Italia, non ci hanno lasciato cambiare niente, e allora gli ho detto: avete vinto voi, ma almeno non riuscirete a considerarmi vostro complice. Così gli ho detto, e sono tornato qui. Così parlava il sergente maggiore Nicola Lo Russo, Diego Abbatantuono, la coscienza morale del film, ormai anziano, con lo sguardo pieno di malinconia e antica rabbia, pensando a quello che poteva essere e non è stato. Un uomo che, dopo aver combattuto in Africa al termine della guerra, pensava ingenuamente in un coinvolgimento popolare nel processo di cambiamento del paese. Resosi conto di far parte di quella grossa fetta di italiani esclusi da tutto, deluso e sfiduciato, decide di lasciare l'amata Italia, ritornare su quell'isola incontaminata, forse inseguendo un personale oblio. Pellicola volutamente leggera, non priva di errori e qualche ingenuità, gli effetti speciali della distruzione della nave erano già al tempo involontariamente comici, ma che, comunque, segna una pagina importante del cinema nostrano. Quel cinema di una generazione di registi, Amelio, Martone, Lucchetti, oltre a Salvatores, che a cavallo tra gli anni 80 e 90 aveva qualcosa di nuovo da dire. Gabriele Salvatores utilizza la guerra, che non si vede, come elemento di frattura tra un prima e un dopo. Amara riflessione su una generazione tradita da promesse non mantenute, esattamente come la generazione a cui appartiene il regista. Infatti l'ambientazione negli anni 40 è solo una metafora per parlare dei sogni e delle speranze di chi aveva 20 anni negli anni 70 e aveva creduto in un cambiamento, una generazione che si ritrovò adulta, priva e forse tradita di quell'impegno politico e sociale che aveva segnato gli anni della giovinezza. Mediterraneo è un film malinconico che resta nel cuore perché tutti abbiamo una speranza svanita, una piccola sconfitta nata da una fiducia tradita. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.